Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Giovanni Basagni e Miniconf. Mini confezioni per l'infanzia da 40 anni. Di Anna Marino. Stare insieme ai bambini, fare gruppo, giocare assieme, studiare assieme, la sensazione del gruppo, del giocare, di essere liberi, il bambino è libero, come si dice, ancora la testa da riempire, e quindi è importante, perché dipende come si riempie la testa dei bambini. Questa è l'infanzia nell'immaginario di Giovanni Basagni, presidente e direttore generale di Miniconf S.p.A., azienda specializzata nell'abbigliamento per bambini, da lui fondata 40 anni fa a Ortignano Raggiolo, in provincia di Arezzo. Con 7 milioni e mezzo di capi realizzati ogni anno, l'impresa è oggi al quinto posto nella classifica dei produttori nazionali ed è in forte espansione sui mercati esteri, in particolare Europa orientale, Russia, Giappone e Cina. Ed è l'infanzia che ha vissuto, dove il gioco era semplice, aggregante e insegnava la vita, anche quella imprenditoriale. Sicuramente noi abbiamo vissuto in una generazione ovviamente diversa, una generazione che ha visto nei bambini la parte del dopoguerra, 47, 50, 55, 60, anche anni particolarmente duri. La cosa bella è che eravamo più o meno tutti uguali, quindi non c'erano discriminazioni sociali all'interno del sistema. Vivevamo tutti più o meno lo stesso stato di partecipazione con i giochi che non erano giochi, con le cose che costruiamo da noi, perché la fantasia, la propria creatività, cioè partiva effettivamente da lavorare con dei legni, da lavorare con tappini di bottiglia per giocare, cioè i giochi proprio semplici. Quindi la creatività sicuramente era un elemento importante, perché ognuno di noi portava un contributo nel gioco. La sua famiglia è stata il terreno fertile dove è nata la filosofia dell'azienda, prima ancora che nascesse l'azienda stessa. Io non avevo l'idea di fare l'imprenditore. Ci sono arrivato, diciamo, a 26 anni come scelta. Alla fine della media superiore, la famiglia ha dato sicuramente un momento di formazione e di educazione forte. Il senso del dovere è molto, molto forte sotto questo aspetto qua. Quindi il rispetto degli altri, il rispetto delle cose degli altri. E questi sono gli elementi, sono le tre o quattro cose che nella vita ti rispetti le cose, le persone, è già una cosa importante. Io dico tuttora, cioè se ritroviamo dei vocabolari, la parola buonsenso e galantuomo, avremo risolto il problema di questo paese al 90%. Conseguito il diploma di perito elettrotecnico, ha cominciato lavorando da dipendente in una ditta di confezioni. Dopo 7 anni di esperienza, metà dei quali come direttore di azienda, ha deciso di diventare imprenditore, mettendo a frutto la preparazione acquisita nel settore. È stato selezionato per un'azienda di confezioni che a me non piaceva, quindi sono andato a fare un lavoro che assolutamente, detto ci vado, sempre per dovere. Sono entrato dentro, si lavorava 12 ore al giorno, anche qualche volta la domenica mattina, e sono stato affiancato dai consulenti della Cursalman Society, una società di gestione delle produzioni, una società americana, e che per 2 anni mi ha fatto formazione. Dopo 2 anni la proprietà ha deciso di aprire un'azienda vicino in Casentino, dove io abito, e mi hanno mandato ad aprire questa azienda. In 6 mesi, avevo 21 anni, abbiamo assunto 130 persone, e a 22 anni mi hanno dato la responsabilità amministrativa, commerciale degli acquisti. Quindi questo periodo di collaborazione è andato avanti 5 anni, dopo 5 anni sono stati gli elementi dissenzienti proprio, quindi non ci siamo trovati. Sono uscito senza sapere cosa fare, perché non avevo... Ho detto proviamo a fare qualcosa. Avevo un cugino che mi ha aiutato per quanto riguarda la parte relativa agli uffici. Abbiamo trovato un fondo di 150 metri con 6 persone, 7 capi. Abbiamo trovato 30.000 camicie, 1.000 lire, da poter produrre da bambino. Abbiamo fatto abbigliamento da bambino. Come le start-up di adesso, tutto è iniziato da poco ed è arrivato a molto. Un misterioso motore che ha portato, fin dai primi anni, una crescita quieta e sicura dell'impresa. Da 2 miliardi di lire di fatturato a 35 miliardi negli anni 80, passando a 45 miliardi negli anni 90, per arrivare, nell'esercizio 2010, a 75 milioni di euro. Giovanni Basagni svela il mistero che fa la differenza tra oggi e i tempi in cui lui ha fondato Miniconf. Nel 73 l'offerta sicuramente forse ancora era più importante della domanda, quindi ora si è ribaltato tutto sotto questo processo. Quindi abbiamo potuto, io dico, quando vado a fare testimonianza, la differenza delle start-up di oggi che le citavo, ci sono tre elementi fondamentali. Allora i soldi in qualche modo te li davano. Io ho iniziato con 1,5 milioni, con la liquidazione, quindi con 700 euro di oggi, quindi una cosa quasi impossibile. Quindi le banche ti davano dei soldi per poter iniziare. Dovevo avere esperienza, ma non era importante avere delle competenze altissime o fortemente innovative sotto, perché noi siamo nati su un processo manufatturiero. Oggi non fa difficoltà a mettere in piedi un manufatturiero. Oggi sull'innovazione fosse ancora qualcosa porti a casa. E il terzo, non puoi sbagliare oggi. Allora si sbagliava. Cioè, noi c'era permesso di sbagliare, e quindi le aziende che permettono di sbagliare ti danno l'opportunità di stare in piedi. La mortalità oggi del 40% delle aziende va nella direzione che oggi non puoi sbagliare. Quindi questi sono gli elementi che allora, nel 73, ci hanno permesso di portare avanti una startup, perché era una startup a tutti gli effetti, cosa che oggi non so se sarebbe la stessa cosa, sempre il sottoscritto nelle stesse condizioni. Nel corso della sua carriera lavorativa, Basagni ha inoltre ricoperto numerosi incarichi in ambito associativo. Il territorio è sempre stato nei suoi pensieri e con lo spirito di servizio ha guidato in qualità di presidente l'Associazione Industriali di Arezzo. Ha fatto parte della Giunta di Confindustria, è stato presidente dell'Istituzione dei Distretti Industriali della provincia di Arezzo, fino ad arrivare al riconoscimento come Cavaliere del Lavoro. E il Casentino, con il raccoglimento delle sue pievi e l'ardimento dei suoi picchi rocciosi, è stato sicuramente un fattore determinante. Noi siamo fieri di abitare una vallata che si chiama Casentino. Non so se tutti lo conoscono, Casentino tra Arezzo e Firenze, nella parte dell'Appennino, a 20 km dalla Romagna, cioè vicino al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Sicuramente una terra, una vallata abbastanza chiusa, dove però le radici ancora sono forti. Io dico che la nostra è un'azienda internazionalizzata, globalizzata. Noi partiamo dalla coesione del sistema azienda, sistema territorio, perché il 97% delle persone sono lì a un quarto d'ora di macchina, tanto per essere puntuali. E quindi condividiamo personalmente le radici, le consuetudini, e quello che è la parte valoriale di un territorio. Da sempre abbiamo cercato di favorire la conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. Con Miniconf, grazie a un attento monitoraggio del mercato e dei gusti dei consumatori, ha realizzato tre linee specifiche di abbigliamento: Sarabanda, Dodi Petto e Aidu, destinate a bambini da 0 a 16 anni e tutte caratterizzate dall'elevata coordinabilità dei capi. Negli anni 90 ha collaborato con diversi stabilimenti produttivi all'estero, dislocati fra Europa, Asia e Nord Africa. Una rete di negozi che dal primo nucleo nelle principali province della Toscana si è estesa fra monomarca e multimarca a oltre 2200 punti vendita. Anche in Italia l'obiettivo non è solo l'espansione, ma tutelare i bambini tutti i giorni. Biglietto da visita anche per l'estero. Questo è il significato dell'apertura di un punto vendita esclusivo in via della Spiga 50 con il marchio Sarabanda. Va nella direzione di dare forza come flagship a un processo di internazionalizzazione. Noi abbiamo parlato di due paesi importanti, ma noi abbiamo tanti clienti in coming che arrivano in Italia. Siamo presenti in 45 paesi, per cui è importante per noi avere una visibilità internazionale partendo proprio da Milano, partendo proprio dalla Via della Spiga, in termini di rappresentazione. C'è un altro aspetto, direi, che è importante, che non è emerso. Noi dal 2000 stiamo seguendo un progetto di sostenibilità che va nella direzione di dare attenzione alla sicurezza chimica, alla sicurezza meccanica per il bambino e alla parte relativa alla sostenibilità della produzione. Perché noi abbiamo uno slogan molto per noi importante: non dove si produce, come si produce. Cioè, è importante che anche qualsiasi MED abbia ovviamente una qualità e una responsabilità dietro sotto questo processo. Il futuro per un'azienda e per un paese, secondo Giovanni Basagni, è immedesimarsi nei bambini e credere in loro. Certamente, se vogliamo parlare di paese, di azienda, che poi l'azienda è una parte del paese, il futuro nasce dai bambini, nasce dalla natalità. Peccato che noi in Italia abbiamo 1,40, mi sembra, di natalità e anche nell'ultimo anno sono calati, mi sembra, di 4-5% sotto questo profilo. Quindi, paese che momentaneamente non crede molto nel futuro, perché non credere nei bambini vuol dire non credere nel futuro. Il bambino è un po' il nostro, se vogliamo, uno specchio. Sotto tutti gli aspetti. Se il bambino è felice vuol dire che davanti c'è qualcosa di felice. Se il bambino è felice vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, quindi non filtra e quindi ti manda dei messaggi, direi, particolarmente importanti, devi saperli ascoltare. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.